Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io stesso ho ripetutamente parlato con colleghi del governo turco in queste ore, ieri e l'altro ieri. Abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che la loro risposta sarà orientata al rispetto della legge, dello Stato di diritto. Sinceramente vediamo dei segnali che vanno in una direzione molto diversa. Eh sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questi segnali vanno in una direzione diversa in Turchia. Questo è il ministro Gentiloni, ministro degli esteri, che a proposito del dopo fallito golpe in Turchia dice: ci auspichiamo che comunque vengano rispettati i diritti costituzionali, i diritti civili, però ci sembra che tutto stia andando in un'altra direzione. Infatti il presidente turco Erdogan proprio poco fa in serata ha detto che è pronto a dire sì alla reintroduzione della pena di morte. Dice: se il Parlamento turco lo approverà, reintrodurremo la pena di morte. Si parla qui già di una repressione che sta portando avanti pesantissima, perché ci sono migliaia tra poliziotti, tra funzionari, dipendenti pubblici che vengono arrestati, e che fine potrebbero fare in effetti. Questo è uno dei temi, naturalmente un tema centrale qui Effetto Notte, in questa prima puntata della settimana che approfondiremo e sul quale potete intervenire con i vostri messaggi e le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure sul numero 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp e gli SMS, 349-238-6666. Parleremo anche della convention negli Stati Uniti iniziata per Donald Trump, che per incoronarlo ufficialmente come candidato dei repubblicani per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti. E poi ci dovremo collegare anche con l'allenatore del marciatore altoatesino Schwarzer, perché è arrivato dal tribunale di Losanna. Lui aveva fatto ricorso per non essere sospeso dai giochi di Rio 2016. Il tribunale di Losanna non ha detto del tutto no, ha detto vedremo, non chiudiamo del tutto la porta delle Olimpiadi. Adesso invece si apre come sempre il riassunto della giornata. Turchia, dopo il fallito golpe, il presidente Erdogan va avanti con le purghe, nel mirino migliaia tra militari, magistrati e dipendenti pubblici. A Istanbul il vice sindaco ucciso da due killer. Vertice dei ministri degli esteri europei, l'Unione Europea avverte Erdogan: se reintroduce la pena di morte sarà fuori dall'Europa, e lui dice: se il Parlamento turco dà il via libera alla pena capitale avrà la mia approvazione. La strage di Nizza, il killer studiava la propaganda ISIS, sono 6 gli italiani dispersi. Contestato il primo ministro Valls, che replica: siamo in guerra, la Francia non si divida. Stati Uniti al via la convention repubblicana, Trump attacca Obama, dice: i nuovi morti a Baton Rouge sono colpa sua. Processo Olivetti, 5 anni e 2 mesi a Carlo De Benedetti per i morti da amianto, condannato Passera, assolto Colaninno. Il caso Cucchi, nuova assoluzione in appello per i medici del Pertini. La sorella pubblica una foto del cadavere e scrive: sei sempre stato morto, scrive così amaramente. Olimpiadi di Rio, il rapporto WADA accusa la Russia, doping diretto dallo Stato, coinvolti 312 atleti, il CIO pronto a escludere Mosca dai giochi. E per Alex Schwarzer il tribunale di Losanna non chiude per il momento le porte dei giochi 2016. Calcio, su Higuain De Laurentiis alza il muro e la Juventus frena, niente clausola per ora. Quindi naturalmente partiamo dal fallito golpe in Turchia. Il presidente turco Erdogan sta procedendo, vi dicevo, con migliaia di epurazioni tra militari, magistrati e dipendenti pubblici, e nonostante il monito dell'Unione Europea, che arriva dal vertice di oggi dei ministri degli esteri, che avvertono il sultano che vanno rispettati i diritti umani, i principi costituzionali, Erdogan in serata ha dichiarato che se il Parlamento turco approverà la reintroduzione della pena di morte, lui darà il via libera. Resta quindi altissima la tensione in Turchia. Oggi a Istanbul ci sono state 2 sparatorie, in una di queste è stato ucciso il vice sindaco di Istanbul. Tra poco ci collegheremo con la città turca per capire cosa sta succedendo in queste ore, ci faremo raccontare le conclusioni anche del vertice europeo che ha avuto al centro la questione turca, e cercheremo anche di capire se può essersi effettivamente trattato, come dice qualche analista, di un golpe fasullo e cosa potrebbe adesso cambiare anche nei rapporti internazionali. Turchia quindi sotto osservazione in queste ore, come però anche la Russia, poiché le accuse di doping di Stato sono state confermate. La WADA ha chiesto ufficialmente di escludere tutte le nazionali della Russia dalle gare delle Olimpiadi di Rio. Il governo russo ha progettato e poi applicato uno schema illegale per coprire casi di doping durante l'edizione 2014 dei Giochi Olimpici tenuta a Sochi. L'accusa pesantissima è dettagliata nelle 91 pagine del rapporto McLaren diffuso e scaricabile sul sito wada-ama.org. Secondo l'agenzia indipendente che ha sede in Svizzera e Canada, la manipolazione dei test antidoping coinvolgeva il laboratorio di Sochi, ma anche quello di Mosca per almeno 312 casi. La commissione diretta da Richard McLaren sostiene che il sistema cominciò a Vancouver 2010, coinvolse in pratica tutti gli sport, ebbe effetto a Londra 2012, ai mondiali dell'atletica di Mosca del 2013, naturalmente a Sochi 2014 e a quelli di nuoto di Kazan 2015. A capo del sistema di falsificazione, afferma l'avvocato canadese, c'era il Ministero dello Sport di Mosca con la collaborazione dei servizi di sicurezza, FSB ex KGB, e del Centro Nazionale di Preparazione del Team Russia. Un quadro davvero esplosivo e radicalmente distante da quello descritto dalle autorità russe, secondo le quali sono sempre e solo stati casi di doping individuali. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore. In queste ore di grande tensione internazionale è cominciata negli Stati Uniti la convention repubblicana per l'ufficializzazione della candidatura alla Casa Bianca di Donald Trump. Subito un attacco forte da parte sua ad Obama, ha detto Trump: il paese è diviso e fuori controllo, le cose peggioreranno e il killer di Baton Rouge ha legami con l'Islam radicale. Questa ulteriore strage, ha detto Trump, è colpa di Obama. E più tardi ci collegheremo direttamente con Cleveland, nell'Ohio, dove si sta tenendo appunto questa convention aperta, tra l'altro dalla moglie di Trump, Melania. E siamo alla strage di Nizza, alta tensione alla cerimonia in ricordo delle vittime oggi, dove il primo ministro Valls è stato fischiato. Ancora 19 feriti, tra l'altro, sono in pericolo di vita. Allora sentiamo la cronaca dalla Francia e poi il fronte italiano con i nostri connazionali che sono ancora dispersi. L'umore dei francesi si intuiva già da qualche biglietto lasciato sulla promenade, non più solo dolore ma pure rabbia. Una rabbia a cui hanno dato voce i fischi contro il premier Manuel Valls, tornato in Costa Azzurra per commemorare le vittime della strage. Invoca le dimissioni la folla che si ribella dopo l'ennesimo attentato in Francia. Un attentato ormai sempre più di matrice jihadista, perché anche se non è stato ancora scoperto un legame diretto tra Daesh e Mohamed Bulel, l'interesse di quest'ultimo verso il radicalismo islamico, dice chiaro e tondo il procuratore François Moulin, era concreto e recente. È il materiale trovato nel telefono e nel suo PC a confermarlo. Sono le foto di cadaveri, video di combattenti col drappo dell'ISIS, sono le sue ricerche sul web, sul Corano, sulla propaganda di Daesh, ma pure foto di Charlie Hebdo e Bin Laden e anche sulla sparatoria di Dallas e Orlando. È così che in poco tempo un uomo psicologicamente instabile che mangiava maiale, beveva alcol e che si era scattato almeno 3 selfie prima della strage si è autoarruolato nell'esercito del califfato. Tipico esempio, conclude il procuratore, di chi passa all'azione senza aver bisogno di istruzioni precise. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A 3 giorni dalla strage di Nizza non si hanno ancora notizie di diversi italiani. Secondo il Ministero degli Esteri manca all'appello una decina di connazionali, tra feriti e dispersi. Una coppia di Voghera e una di Milano sono irrintracciabili dalla notte dell'attentato. Le autorità francesi continuano a lavorare per dare un nome alle 13 vittime non ancora identificate. La situazione a Nizza è molto delicata, dice il console italiano Serena Lippi. In questo momento ci stiamo concentrando sulle famiglie dei connazionali che sono venute dall'Italia e quindi stiamo dando loro tutto il sostegno da qualsiasi punto di vista. A Parigi l'ambasciatore italiano Gian Domenico Magliano è stato convocato dalle autorità francesi per una riunione in cui si sta facendo il punto sulla situazione delle vittime dell'attentato terroristico. Sono presenti anche gli ambasciatori di altri paesi coinvolti nella strage ed è probabile che ai diplomatici vengano illustrate le procedure per il riconoscimento dei cadaveri che porteranno alla definizione della lista ufficiale delle vittime. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono verifiche in Italia su uno dei 7 fermati in Francia. Si tratta di un tunisino che avrebbe lavorato anni fa in Puglia. L'uomo faceva parte della rete di contatti del killer di Nizza, Mohamed Bulel. Arriva una ferale notizia anche dal Brasile. Il sedicente Stato Islamico sbarca in America Latina con un proclama postato sui social media 3 settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi di Rio, che iniziano il 5 agosto. Un gruppo che si fa chiamare Ansar al-Khilafa Brasile, cioè sostenitori del califfato in Brasile, ha giurato fedeltà al leader del gruppo terroristico guidato da al-Baghdadi, il Il Post, apparso sulla piattaforma social Telegram, è stato segnalato da Site, sito americano di monitoraggio in rete dei gruppi jihadisti. Ritorniamo sulle notizie italiane con lo scontro dei treni in Puglia. A Trani oggi c'è stato l'interrogatorio del capostazione di Andria. Il fatto di aver avuto due treni fermi in stazione avrebbe indotto a un automatismo. Vito Piccareta, che ha ammesso davanti ai PM di aver fatto partire il treno diretto a Corato, che si è poi scontrato con quello che da Corato stava invece partendo. Lo hanno riferito fonti investigative. Piccareta però ha smentito l'alterazione fatta a penna sul registro di partenza del treno dalla stazione di Andria. E parliamo adesso della sentenza per l'amianto all'Olivetti. Tutti condannati. Il Tribunale di Ivrea ha pronunciato la seguente sentenza. Condanna De Benedetti Carlo alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione. De Benedetti Franco alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione. Stessa pena, la più pesante, per i fratelli Carlo e Franco De Benedetti. Sono stati riconosciuti dal Tribunale di Ivrea colpevoli di lesioni colpose e omicidio colposo per 10 casi di malattie d'amianto tra ex operai Olivetti. A pronunciare la sentenza, in tutto 13 condanne contro ex proprietari e dirigenti d'azienda, il giudice era Stoppini. All'ex ministro Corrado Passera 1 anno e 11 mesi, mentre fra gli assolti figurano Camillo Olivetti e Roberto Colaninno. Si avvicinano 2 milioni di euro gli indennizi a titolo provvisorio alle parti civili. Sono stupito e molto amareggiato. Sono stato condannato per reati che non ho commesso, ha commentato, annunciando il ricorso in appello, Carlo De Benedetti, nei confronti del quale però gli accertamenti relativi alle morti di amianto non sono finiti. Così a riguardo Laura Longo, uno dei due PM al processo Olivetti. Questa è stata una prima tranche, sono al vaglio degli inquirenti ulteriori casi di amianto. Visto che è stato utilizzato fino a tempi molto recenti, è ragionevole aspettarsi che arrivino ancora dei casi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il caso Cucchi adesso è confermata l'assoluzione per i medici implicati nella morte di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato il 15 ottobre 2009 perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e morto una settimana dopo in ospedale. I 5 medici erano stati condannati in primo grado per omicidio colposo, poi assolti in appello. In seguito la Corte di Cassazione aveva annullato quelle assoluzioni e disposto un appello bis. Ora si attende il possibile nuovo ricorso in Cassazione da parte della Procura e soprattutto l'inchiesta bis con la super perizia. La politica italiana, la giunta per l'immunità di Palazzo Madama revoca il mandato di parlamentare al senatore di Forza Italia Augusto Minzolini, ex direttore del TG1, dopo la condanna per Minzolini per peculato continuato. Ora l'ultima parola spetta all'Aula del Senato e lui, dice Minzolini, la battaglia che ho intrapreso va al di là della mia persona, qualunque sia la decisione io mi dimetterò, così ha detto Minzolini prima del voto. Spiagge, in attesa della riforma delle concessioni balneari, quelle in essere rimangono in vita e quindi sono prolungate fino al 2020, data della loro scadenza. Questo è successo dopo l'indicazione che ha dato l'Unione Europea. Lo prevede un emendamento al decreto sugli enti locali presentato dal relatore Antonio Misiani e approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Quindi rimarranno in concessione fino al 2020. Per chiudere lo sport, il TAS di Losanna ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da Alex Schwarzer per lo stop cautelare inflitto dalla IAF a seguito del nuovo caso di positività. Il Tribunale arbitrale di Losanna però ha stabilito che a breve stabilirà se il marciatore altoatesino potrà partecipare o no alle Olimpiadi di Rio, quindi non è del tutto chiusa la porta. Per il calcio, Higuain resta al Napoli, non c'è trattativa, quindi basta, così ha detto l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta, confermando che il club non intende pagare al Napoli la clausola rescissoria di 97 milioni per l'attaccante atteso al ritiro partenopeo il 25 luglio prossimo. E adesso il ciclismo, ci trasferiamo al Tour de France. Il Tour arriva in Svizzera e sul traguardo di Berna vince al photo finish lo slovacco campione del mondo Peter Sagan, che alla meglio su un ritrovato Alexander Kristoff. La 16ª tappa del Tour vive su una lunghissima fuga a due di Tony Martin e Julian Alaphilippe, compagni di squadra nella belga Etics, che restano al comando per più di 160 km. Ripresi due ci prova l'ex campione del mondo di Firenze, Rui Costa, ma è il campione del mondo in carica, maglia verde della classifica punti, a cogliere sul traguardo di Berna la terza affermazione in questo Tour. Classifica generale invariata, Chris Froome sempre in giallo con 1,47 di vantaggio sull'olandese Mollema e 2,45 sul britannico Adam Yates. Il nostro Fabio Aru sempre decimo a 5,16 da Froome. E domani il Tour per la seconda volta riposa in attesa delle Alpi. Per Gusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Berna. E questo è il quadro della giornata. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando, poi cominceremo ad approfondire, entrare nel cuore degli argomenti con i vari ospiti. Intanto arrivano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al numero per i WhatsApp e per gli SMS, che è il 349-238-6666, 349-238-6666, sui vari temi del giorno. Per esempio Giuseppe da Roma scrive: il golpe è fallito, spero che la Turchia trovi pace. E poi Filippo, 44 anni, da Milano, dice anche la sua età, dice: bisogna avere il coraggio di sbattere fuori la Turchia dalla NATO, il paese islamista e autoritario non può stare nell'alleanza atlantica. Poi Simone invece scrive un messaggio sulla Francia e uno sulla Turchia. La Francia è in guerra, ma il tunisino non sembra appartenere, cioè il killer, a nessun esercito, tantomeno a quello dell'integralismo. Era un ubriacone mai visto in moschea. Però purtroppo abbiamo capito anche venerdì col professor Orsini che questa ideologia, chiamiamola così, ha forte presa anche sugli psicopatici, come vogliamo chiamare, sulle persone, sugli uomini disturbati. Poi l'altro messaggio invece sulla Turchia: io sono stato favorevole alla Turchia in Europa anni fa, abbiamo perso tempo e favorito la sua radicalizzazione, ormai è impossibile. Capiamo tra poco se effettivamente il rimandare ha incentivato questa radicalizzazione. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi. Cominciamo allora ad addentrarci nei vari temi, in particolare sul dopo fallito golpe in Turchia. Intanto arrivano i vostri messaggi che potete mandare alla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure le vostre riflessioni anche al 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS, con le vostre riflessioni sui temi principali del giorno. Per esempio Alessandro dice: il suo golpe invece è riuscito alla perfezione, secondo Alessandro, perché evidentemente ritiene, come alcuni osservatori, che sia stato un autogolpe. Ilaria dice: le epurazioni me le aspettavo, del resto aveva iniziato già prima del golpe, adesso secondo lui vale tutto, tanto il popolo lo appoggia, mi ricorda tanto qualcuno che poi finì a testa in giù, scrive Ilaria. Allora, tra pochissimo cominciamo appunto su questo tema. Vi ricordo però, se non avete acceso la radio puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali. Le purghe di Erdogan in Turchia, poliziotti e statali nel mirino, Angela Merkel avverte no alla pena di morte o addio all'Europa. Nizza, il killer studiava all'ISIS ma viveva senza freni, intanto in Francia fischi al primo ministro Valls, che oggi ha voluto ricordare le vittime, la cerimonia appunto per le vittime, dice: stiamo uniti, la Francia non sia divisa, siamo in guerra, anche aggiunto Valls. Al via negli Stati Uniti la convention repubblicana, Trump attacca Obama, dice: la strage di Baton Rouge è colpa sua, e c'è allerta, Cleveland dove c'è la convention oggi è blindata. Doping di Stato, Mosca fuori dai giochi, così chiede l'agenzia internazionale WADA, ma Putin minaccia appunto di rompere i rapporti. E poi processo Olivetti, 5 anni e 2 mesi a Carlo De Benedetti per i morti d'amianto, condannato Passera, assolto Colaninno. Il caso Cucchi, nuova assoluzione in appello per i medici del Pertini, la sorella pubblica una foto del cadavere e scrive con amarezza: sei sempre stato morto. Cairo punta al comando di RCS, Urbano Cairo, Bonomi si fa da parte. Poi la Juve non paga la clausola, assalta Higuain. Quindi il colpo di Stato fallito in Turchia, qual è la situazione? Venerdì sera questo colpo di Stato è durato circa 4 ore, con i morti che ci sono stati, le purghe del presidente Erdogan, vi dicevo, migliaia di dipendenti pubblici, funzionari, poliziotti, militari, magistrati che vengono appunto tolti dai loro ruoli, molti incarcerati. Ci sono dubbi sull'autenticità di questo fallito colpo di Stato, che qualcuno appunto definisce fasullo, e poi ci sono i rapporti con l'Unione Europea, con gli Stati Uniti, con la NATO, con la Russia, che potrebbero cambiare, e infatti oggi c'è stato questo vertice dei ministri degli esteri europei proprio su questo tema. Ma prima di tutto cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in questi momenti, in queste ore in Turchia, e ci colleghiamo con il nostro Marco Barbonaglia a Istanbul. Ciao Marco. Ciao. Marco, tra l'altro oggi è morto il vice sindaco di Istanbul, sì, perché è stato assalito da 2 killer, no? Quindi il vice sindaco Cemil Candash del Partito Popolare Repubblicano, quindi partito di opposizione, CHP, è stato ferito alla testa e poi è morto in seguito a questi spari, colpi d'arma da fuoco che lo hanno colpito. Ma insomma, in questi giorni c'è un'atmosfera un po' sospesa in Turchia, non si riesce esattamente a capire cosa accadrà. io proprio oggi girando per la città notavo che non c'è quasi polizia in tante zone, per esempio in piazza Taksim pochissima, alcuni, ho visto alcuni ragazzi anche piuttosto malmessi in borghese, ma nel senso che li ha epurati tutti, cioè non c'è più trovo che sia un grosso scollamento tra tutte queste notizie di arresti e tutto, e una sensazione di quasi di mancanza del controllo, non so se reale o meno, però vedo che per esempio anche prendendo i mezzi pubblici i tranelli girano a vuoto, non si paga più il biglietto da 3 giorni per nessun mezzo pubblico, può darsi che sia dovuto al fatto che Erdogan dice alla gente di stare in strada, non lo so, però è una cosa veramente anomala, soprattutto perché qua eravamo abituati a controlli rigorosissimi, che ad ogni attentato diventavano più rigorosi oltretutto. Marco, ma tra l'altro nel mirino abbiamo detto militari, poliziotti, abbiamo visto foto anche sui siti di tantissimi soldati, militari, ufficiali, piuttosto svestiti, legati mani e piedi, no? Tutti ammassati gli uni contro gli altri. Tra l'altro nel mirino ci sono anche i dipendenti pubblici, addirittura sono state vietate le ferie a 3 milioni di dipendenti e vietato l'espatrio. Come mai c'è questa... È ovvio secondo me che Erdogan sta utilizzando quello che gli è stato servito da alcuni golpisti che, ricordiamo, sono comportati comunque, perché questo è sentimento molto diffuso in Turchia, da delinquenti per quanto da strapazzo, e gli hanno anche servito su un piatto d'argento la possibilità di regolare i conti con chiunque volesse, ma va detto che il sentimento più comune che si trova tra la popolazione, io ho parlato con molte persone che non solo non hanno mai votato Erdogan ma l'hanno sempre detestato, e però dopo lo shock di quello che si è vissuto tra venerdì e sabato dicono meglio, voglio dire, anche il Cumhuriyet, giornale laicissimo e contro Erdogan, giornale di Can Dündar, uno degli editoriali titolava è meglio il peggior governo eletto della miglior dittatura militare. Quindi voglio dire, questo sull'onda di questo sentimento di una popolarità che Erdogan, pur avendone avuta tanta, non ha mai avuto, lui a questo punto sta regolando i conti con chiunque possa essere in qualche modo riconducibile a Fethullah Gülen, per esempio, e probabilmente anche con persone che sono suoi oppositori, ma di altre fazioni, ecco. Particolare che, come dici tu, la popolazione sia con lui, con migliaia di persone che ormai appunto rischiano grosso, no? Licenziati, a parte licenziati su due piedi, tantissimi dipendenti pubblici, non solo, anche magistrati, però poi rischiano anche la pena di morte, no? Perché Erdogan in serata, come tu sai, Marco Barbonaglia, ha detto: certo, se il Parlamento voterà per la reintroduzione della pena di morte, io non ho nulla in contrario, darò l'ok. Ma io non so dove questo, se questa cosa si fermerà o se si arriverà alla veramente a reintrodurre la pena di morte, che ricordiamo è stata abolita in Turchia definitivamente, anche se già da prima non era più eseguita, ma insomma dal 2004, quindi sotto governo Erdogan, quindi è stato lui l'uomo che all'epoca l'aveva abolita. Quindi. Ma devo dire che questi golpisti hanno fatto da quel punto di vista lì un capolavoro, cioè hanno talmente scioccato la popolazione, perché visto da qua è stato realmente un inquietante da vedere come cosa, che hanno fatto, io ho parlato con persone che mi hanno sempre, che mi dicono: noi non andiamo in piazza perché lo dice Erdogan e non ci andiamo perché sono oppositori suoi da sempre, però poi mi dicono comunque fanno bene a fare un po' di pulizia visto quello che è successo. Naturalmente questo l'hanno detto nei giorni scorsi, prima che prendesse queste dimensioni, naturalmente intendevano i generali, i golpisti, non è che intendevano tutto questo, però voglio dire che mi è parso molto strano sentire questo, cioè strano, so che prima di questo avvenimento, di questo attacco, non avrei mai sentito queste persone parlare in questo modo, per esempio. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul, buon lavoro Marco. Grazie a voi, buona serata. I vostri messaggi continuano. Gianfranco da Milano scrive: secondo me era un finto golpe, Erdogan aveva bisogno di nuova credibilità e consenso internazionale, di fare pulizia di elementi laici e difensori dei gruppi minori. Chi ha avuto modo di assistere ai veri golpe sa che sono immediati, violentissimi e senza ritorno. Erdogan è un drammatico buffone. Non so cosa ne pensa il professor Carlo Frappi, ricercatore dell'ISPI. Buonasera professore. Buonasera. Che ne pensa lei? Intanto, perché un colpo di Stato adesso in Turchia e quanto è fondata l'ipotesi appunto di un golpe fasullo, secondo lei? Ma io non confonderei cause ed effetti e non sottoscriverei francamente teorie complottiste, anche per una questione di puro buonsenso. Pensare che Erdogan potesse organizzare un finto golpe che potenzialmente poteva anche sfuggire, voglio dire, a questa macchinazione, mi sembra francamente infondata come ipotesi. Questo non vuol dire ovviamente che poi il golpe, il suo fallimento, anche per come è andata la breve o lunga, se vogliamo, notte golpista, poi non abbia evidentemente rafforzato il potere, la presa di Erdogan sulla popolazione, dandogli evidentemente, come veniva anche accennato in precedenza correttamente, dandogli l'occasione, insomma, di regolare anche qualche conto importante sul piano interno del paese. Lei non trova, professor Frappi, che sia comunque curioso che, visto che Erdogan sta portando comunque la Turchia a un processo progressivo di islamizzazione, no? Rispetto alla Turchia laica di Ataturk e degli anni seguenti, e nonostante già una repressione delle libertà civili fosse iniziata con arresti dei giornalisti, qualcuno aveva avuto anche l'ergastolo, no? Quindi contro la libertà di stampa, poi Erdogan è sempre stato ambiguo fino a poco tempo fa nei confronti dell'ISIS, che in parte anche ha foraggiato. E come mai c'è questo consenso popolare comunque nei suoi confronti? Adesso migliaia di dipendenti pubblici, di militari, che chissà che fine faranno. Ma farei anzitutto una premessa. Io non confonderei questo tentativo di islamizzazione, così come spesso è stato presentato, che l'AKP, il partito di Erdogan, avrebbe portato avanti. Se vogliamo, quello che sta succedendo nel corso anche degli ultimi anni, direi, non ci deve far scordare che questo governo era stato una delle più grandi speranze riformiste che la Turchia avesse avuto. Sarebbe un errore cancellare tutto un decennio, direi anche, o qualcosina in meno, di politica dell'AKP, di riforme dell'AKP, per la deriva autoritaria che ha preso. Quella che oggi è in campo, e in fondo anche questo atteggiamento ambivalente, giustissimo, rispetto all'ISIS, sono lotte di potere. Sono lotte di potere regionali, se guardiamo all'ISIS, alla questione dei siriana, così come irachena, e sono lotte di potere interno se guardiamo a quello che è successo con il golpe di venerdì notte. C'è poco di ideologico in questo. Ma secondo lei questa deriva autoritaria di Erdogan c'è o no negli ultimi tempi? Assolutamente sì, perché a partire direi dal 2013, ricorderà sulla fine del 2013 le inchieste giudiziarie che hanno colpito molto vicino Erdogan anche all'interno della sua famiglia. A partire dal 2013 la longevità, la sopravvivenza politica di Erdogan è stata giocata proprio su un incremento dei toni nazionalistici, populistici, anche complottistici, se vogliamo, del Presidente della Repubblica. Su questo, quindi parlando alla pancia, alla nazione profonda, Erdogan in qualche modo ha basato la sua longevità politica e in qualche modo anche la sua crescita di consenso all'interno del paese. Questo evidentemente disegna un quadro a tinte quantomeno fosche, perché se la forza politica di Erdogan, come sembra, è proporzionale al grado di conflittualità sociale che il paese vive, è chiaro che questo crea un divario che ho paura essere incolmabile tra l'interesse personale o del gruppo di potere e quello della nazione, e inutile dirlo, rischia di spingere il paese verso derive che poi potrebbero essere difficilmente controllabili anche da un governo che ha reso, come dire, il controllo sociale abbastanza pervasivo. Senta, molti ascoltatori scrivono come si fa a voler portare la Turchia nell'Unione Europea. Un altro messaggio di Giorgio: la Turchia è lontana anni luce dall'Europa, questa Turchia che vota Erdogan e che lo protegge. Il popolo turco dia un'altra versione di come vedono il proprio paese, questa e molto altro è dittatura, anche l'Europa dia il segno di cosa è e se se lo ricorda ancora. Beh, scrive Giorgio. Io partirei proprio da quest'ultimo punto che mi sembra un po' più interessante, perché le contraddizioni dell'Europa, dell'Unione Europea in quanto tale, sono tanto grandi quanto quelle della Turchia dal mio personale punto di vista. Il problema è che oggi la credibilità, il potere di influenza, la capacità, se vogliamo, di influenza dell'Unione Europea sulla Turchia mi sembrano francamente ai minimi storici, e questo è anzitutto frutto di un negoziato che è stato portato avanti quantomeno, direi, in maniera non sempre trasparente, per non dire in cattiva fede, e di riavvicinamenti che poi d'altra parte sono stati dettati più dalla contingenza, penso ad esempio alle questioni dei migranti, che da una reale condivisione di interessi, di strategie, di una visione di lungo periodo. E onestamente, aggiungerei, non giova in questo senso neanche una certa selettività delle critiche europee, che ad esempio non hanno mai toccato nell'ultimo periodo la questione curda, nonostante il paese da un anno oramai a questa parte sia in uno stato che è difficile definire se non di guerra civile strisciante. Professore, quindi per chiudere, Erdogan abbastanza di recente, anzi tutto insieme nelle ultime settimane, ha fatto pace con Israele nonostante la storia del convoglio navale pacifista turco che era stato attaccato da Israele con 9 morti eccetera. Ha scritto le lettere di scusa a Erdogan per aver abbattuto l'aereo russo, mano tesa alla Siria, è come se avesse preparato un po' il terreno, però le dice la tesi complottistica non c'è, pensa che ci sarà futuro per questo tipo di regime turco in Europa, visto che adesso Erdogan diceva se il Parlamento turco darà il via libera alla pena di morte io la proverò, e nonostante i moniti di oggi in particolare, no, dei leader europei. Io non so se ci sarà una Turchia in Europa, e dubito di questo, ma non soltanto per le mancanze turche. Il problema è capire se si riuscirà a ricreare un interesse comune regionale tra l'Unione Europea e la Turchia. Abbiamo bisogno della Turchia, è impensabile avere delle politiche coerenti ed efficaci in uno scacchiere che va dal Mediterraneo orientale fino al Caspio, passando evidentemente per il Medio Oriente, senza coinvolgere la Turchia, senza avere una comunità di interessi e di vedute. E su questo piano di nuova sovrapposizione degli interessi che l'Unione Europea dovrebbe cercare di spingere il rapporto con la Turchia. Quindi stiamo parlando di realpolitik, insomma, quello che conviene da una parte e dall'altra. Grazie professor Carlo Frappi. Grazie professore, voi, buona serata. Adesso ci lasciamo brevemente per una pausa di ricreazione, e ci sono ancora sempre i vostri messaggi, per esempio Gianfranco da Milano, no, questo l'avevo già letto, questo è un altro sms, Erdogan ha organizzato il più ridicolo colpo di Stato della storia, tutto fatto per eliminare i suoi nemici, professor Frappi non era d'accordo, però e poi è certo che la lista bella e pronta di giudici da arrestare, questo scrive un altro ascoltatore, fa pensare che sicuramente il buon Erdogan ha preso la palla al balzo, degno dell'NBA, della torneo di pallacanestro americano. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, SMS sui temi del giorno, oppure scrivete comodamente sulla pagina Facebook di Effettonote. Ci sentiamo a momenti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Proseguiamo allora con gli approfondimenti dei diversi temi. In realtà restiamo sul dopogolpe fallito in Turchia. Ci siamo collegati con Istanbul per farci raccontare le ultime ore della situazione sempre molto tesa in Turchia. Ci raccontava Marco Barbonaglia che c'è una specie di fuori controllo in questo momento, nel senso che vede pochissima polizia in giro, se non qualcuno un po', diciamo, malconcio, che le persone salgono, scendono dai mezzi, che non si paga il biglietto. Cioè, ma al di là di questo, dice che la popolazione in una certa parte comunque continua a sostenere Erdogan, perché dice meglio un governo politicamente e democraticamente eletto che non anche il più laico delle dittature militari. Insomma, poi abbiamo cercato di capire se effettivamente può essere stato, come secondo alcuni osservatori, un golpe fasullo. Secondo il professore dell'ISPI, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, non ci sarebbe complottismo. Insomma, queste sono In questo momento c'è molto, molto dibattito, molta riflessione su quanto succeduto, in quanto avvenuto in Turchia. Adesso invece parliamo tra pochissimo del vertice dei ministri europei che c'è stato oggi e che ha virato decisamente su questo tema. Ma intanto, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, vi ricordo le notizie più importanti. Turchia, dopo il fallito golpe, il presidente Erdogan va avanti con le purghe nel mirino migliaia tra militari, magistrati e dipendenti pubblici. A Istanbul il vice sindaco ucciso da due killer. Vertice dei ministri degli esteri europei. L'Unione Europea avverte Erdogan: se reintroduce la pena di morte sarà fuori dall'Europa. E lui ha replicato: se il Parlamento turco dà il via libera alla pena capitale avrà la mia approvazione. La strage di Nizza, il killer studiava la propaganda ISIS, sono sei intanto gli italiani ancora dispersi. Contestato il primo ministro Valls che replica: siamo in guerra, la Francia non si divida. Stati Uniti al via la convention repubblicana, Trump attacca Obama e dice: nuovi morti a Baton Rouge sono colpa sua. Processo Olivetti, 5 anni e 2 mesi a Carlo De Benedetti per i morti da amianto, condannato Passera, assolto Colaninno. Il caso Cucchi, nuova soluzione in appello per i medici del Pertini, la sorella pubblica una foto del cadavere del fratello e scrive con amarezza: sei sempre stato morto. Olimpiadi di Rio, il rapporto WADA accusa la Russia, doping diretto dallo Stato, coinvolti 312 atleti, il CIO pronto a escludere Mosca dai giochi. E per Alex Watzer, il Tribunale di Losanna non chiude definitivamente la porta ai giochi 2016. Europa 24 notte. Quindi dicevamo della situazione in Turchia, su questo argomento così caldo e incandescente in questo momento si è tenuto il vertice dei ministri europei. Nelle conclusioni del Consiglio degli Esteri sulla Turchia si legge: l'Unione Europea condanna nel modo più forte il tentato colpo di Stato in Turchia, ribadisce il pieno sostegno alle legittime istituzioni del Paese, deplora l'alto numero di perdite, dal benvenuto alla posizione comune dei partiti a sostegno della democrazia in Europa e chiede che si faccia tutto il possibile per evitare ulteriore violenza, e sottolinea che il rigetto della pena di morte è elemento essenziale per l'Unione Europea. Questo si legge nelle conclusioni di questo vertice. Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao Roberta. Beh sì, insomma l'Europa, come dire, ha fatto l'Europa ancora una volta, in qualche modo ha nei fatti ribadito anche l'ovvio, se vogliamo, no? Lo Stato di diritto è condizione fondamentale, e ha detto una cosa chiaramente è ovvia: chi ha la pena di morte nel suo ordinamento giudiziario non può far parte dell'Unione Europea. Non che la Turchia sia sul punto di entrarvi, anzi. Sono 17 anni che ha fatto questa richiesta, mi pare, la Turchia. Fa parte della NATO, ma sono 17 anni che aspetta di far parte. Ha fatto la richiesta, sì, poi qualche anno in meno forse da quando, diciamo, è tecnicamente diventata paese candidato, ma siamo poi lì si entra, si entra in un gioco di 35 capitoli negoziali da aprire su tantissimi settori della legislazione. La Turchia è ancora molto indietro, per cui fu anche un tema della Brexit, dice Cameron, disse, per giustificare anche il fatto che per allontanare un po' le paure dell'elettorato, disse: beh, la Turchia non entrerà sicuramente prima di 2 o 3 generazioni, quindi forse anche di più, quindi state tranquilli. Però ecco, quello che l'Europa appunto è stata molto chiara nel dire è questa cosa, cioè la pena di morte non deve essere minimamente discussa, e questo lo ha detto anche la cancelliera Angela Merkel. Ha avuto una telefonata direttamente. In una telefonata, esatto, con Erdogan. C'è stato anche, va ricordato oggi, la presenza a Bruxelles del segretario di Stato americano John Kerry, prima volta che partecipava a un vertice dei suoi colleghi europei. L'agenda ovviamente non doveva essere quella che è stata. Si è parlato anche ovviamente di emergenza terrorismo, con Kerry, che ha detto: l'ultimo attentato in Francia rafforzerà la nostra convinzione di combattere le forze dell'estremismo violento, e ovviamente in Turchia. E su questo c'è stato anche un piccolo misunderstanding, un piccolo fraintendimento, perché Kerry ha detto: la NATO vigilerà, monitorerà ciò che accade in Turchia, e il Washington Post ha tradotto questo suo pensiero mettendo in dubbio che la Turchia potesse rimanere nella NATO. Da lì addirittura, oltre a una smentita, una rettifica del Washington Post, c'è stata anche una precisazione della Casa Bianca stessa, quindi dell'ufficio di Obama, dicendo che non è in discussione l'appartenenza della Turchia alla NATO. Tutto sullo sfondo ovviamente delle tensioni con Washington. E anche come partner dell'Unione Europea non è in discussione questo, così ha detto l'alta rappresentante della politica europea degli esteri Mogherini. La sentiamo, qui parla in inglese. We still consider Turkey as a partner, as it is clearly stated in our conclusions, And it is with a friendly attitude that we follow what is happening in the country in this moment. Friendly attitude towards, first of all, the people of Turkey. Ecco, l'avete sentita, sì, la Mogherini dice appunto, consideriamo la Turchia partner, seguiamo un atteggiamento amichevole. E poi ha detto, non è da escludere in futuro una nuova riflessione strategica sui rapporti. In che senso? Questo lascia aperto ovviamente appunto, un po' qualsiasi... la... È un ribadire l'avvertimento, insomma, vediamo come vanno le cose, vediamo cosa succede. Questo fallito golpe ha spiazzato l'Europa. Ricordiamo anche un dettaglio non da poco, se torniamo con la memoria a venerdì notte, che il sostegno internazionale, anche di molti paesi europei, a Erdogan, non è arrivato subito. Infatti, c'è stata ambiguità nel momento, in quelle ore in cui c'era il colpo di Stato. Molti leader è arrivato dopo, quando era sicuro che lui era stabile al suo posto. E questo Erdogan sicuramente non avrà mancato di notarlo. Hanno tardato 2 ore circa, anche i leader europei, prima di dire sosteniamo il governo di Erdogan. Vero. Forse qualcuno ha anche sperato in un golpe, quindi... Sono sempre rapporti molto complicati e molto sul filo di lana, soprattutto adesso in un contesto internazionale così confuso. Quindi sicuramente quello che farà l'Europa ora sarà monitorare da vicino la Turchia e cercare di capire che aria tira ad Ankara e adeguarsi di conseguenza con questi due paletti. Questo ovviamente è stato di diritto, no, alla pena di morte. Questi ovviamente restano due paletti che l'Europa non può minimamente... Attenzione, anche un'altra cosa, c'è ancora la questione della liberalizzazione dei visti. Torniamo alla crisi migranti qui, con la memoria. L'accordo dell'Unione Europea con la Turchia. La Turchia ha qualcosa da chiedere ancora a Bruxelles e all'Europa, quindi sarà ancora un do-des a decidere molte cose nei rapporti bilaterali. Grazie Sergio. Grazie. Nava. Ciao Sergio. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso ci lasciamo per la viabilità. Intanto Mimmo scrive: la Turchia doveva entrare prima in Europa, ormai è troppo tardi. Questa questione chiamerà in causa la Russia. Ci sarà un conflitto tra Stati Uniti e Russia e il gioco del nuovo ordine mondiale è fatto. Beh, cioè, la vedo un po' più catastrofica, Mimmo, di quello che potrebbe essere, però appunto pare che ancora sia molto lontano l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Ci sentiamo momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Cambiamo tema tra pochissimo, Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi ricordate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp e SMS sui fatti del giorno. Danilo che dice: riprendo l'articolo di fondo di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano del sabato, nell'era del Grande Fratello, dice, non ancora adesso fra TV, videotelefonini, network eccetera, si pensava fossimo immuni dalle bugie, invece no, stiamo via più ostaggio perché non sappiamo più nemmeno di non sapere. Infatti pure a me la domanda sorge spontanea. Dice, a proposito della strage di Nizza, un auto snodato di 18 tonnellate pieno di gelati, a chi li deve consegnare nel bel mezzo di una festa nazionale a Nizza? E questo sull'inadeguatezza dell'allarme delle forze dell'ordine francesi di Nizza, che hanno fatto entrare questo camion. Era bastato che dicesse devo consegnare dei gelati. Adesso però cambiamo tema, vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata, che sono appunto le purghe di Erdogan in Tunisia, poliziotti statali nel mirino, Angela Merkel lo chiama al telefono, avverte no alla pena di morte o addio Europa. Nizza, il killer studiava l'ISIS ma viveva senza freni, fischi intanto al primo ministro francese Valls alla cerimonia per le vittime, lui dice cerchiamo di rimanere uniti. Al via la convention repubblicana degli Stati Uniti, Trump attacca Obama e dice Baton Rouge, la nuova strage è colpa sua, e allerta a Cleveland nel giorno appunto della convention. Adesso invece parliamo di Alex Schwarzer, il marciatore altoatesino che attendeva per oggi pomeriggio la decisione del TAS, del Tribunale Sportivo di Losanna, sulla sua eventuale ammissione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Non c'è stato un via libera ma neanche una porta completamente chiusa. Chiedo all'avvocato di Alex Schwarzer, Gerhard Brandstatter. Buonasera avvocato. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Quindi l'esito a questo punto qual è, in parole chiare? Avvocato. Direi l'esito del mezzo bicchiere vuoto, del mezzo bicchiere pieno. Noi riteniamo che di privilegiare il mezzo bicchiere pieno, nel senso che la misura cautelare cioè di revocare la squalifica, la sospensione, scusate, non è stata concessa, ma nel contempo è stata concessa la possibilità di un procedimento accelerato con l'audizione dell'atleta e di testi proposti. Quindi che cosa succederà adesso, avvocato, a questo punto? La TAS ha detto che deve decidere ancora in modo definitivo, no? Mancano una ventina di giorni alle Olimpiadi. Adesso non si parla più di provvedimento cautelare, ma di questo punto rinunciamo al cautelare, si decide già sul merito con l'audizione dell'atleta. Penso che l'atleta, i testi, anche il suo allenatore possono dire tante cose, chiarire tante cose. Ovviamente ci si chiede la prova su questo intervento esterno. Noi non abbiamo i servizi segreti, non abbiamo il 007, la James Bond, abbiamo solo tutti i dati, tutte le statistiche, tutte le tabelle di allenamento, tutto quanto, che escludono un ricorso al doping. Abbiamo i pareri tecnici, i pareri clinici che ci dicono che non c'è traccia di un progetto, un comportamento toppante. Se qualcuno dopo 8 mesi vuole chiederci la prova di chi ha messo o manipolato le urine o messo sostanze vietate, questa prova non riusciamo a affrontarla. Ma se in buona fede e con un'interpretazione razionale si interpretano i dati di 12 mesi di allenamenti, test, controlli, il risultato è chiaro, chiarissimo. Quindi riteniamo che l'audizione possa contribuire a fare chiarezza. Senta, avvocato Brandstatter, qui a Effetto Notte è stato anche diverse volte l'allenatore di Alex Sandro Donati, no? Che è anche il simbolo dell'antidoping in Italia, che ha detto più volte: ci stanno sabotando, ci stanno boicottando, c'è qualcuno che ha manipolato queste provette. Secondo lei quante speranze, a una ventina di giorni appunto da Rio, ci sono che Alex Schwarzer possa davvero partecipare alle Olimpiadi? Ma le speranze che c'erano oggi rimangono intatte, anzi secondo me aumentano, perché l'audizione di Schwarz, ripeto, Donati, anche di qualche altro test che abbiamo indicato, può essere utile e chiarire tante cose. Certamente abbiamo il rischio di un giudizio unico, non ci saranno giudizi d'appello, e ribadisco, se qualcuno vuole la prova impossibile, non ce l'abbiamo. Se qualcuno vuole interpretare tutto l'iter delle prove invece che abbiamo dimesso, tutto il percorso degli ultimi 15 mesi di Alex accanto a un apostolo dell'antidoping, allora secondo me il risultato è già scritto. Ecco, dica soltanto una cosa, avvocato Brandstatter, poi la lascio. In che tempi deve arrivare questa decisione ulteriore, definitiva, quindi? Entro quanti giorni? Quando? Ma sempre sul presupposto che pare la CONI abbia confermato che l'atleta Schwarzer è iscritto sub giudice, cioè fatta riserva della decisione di giudice, questa decisione deve arrivare prima dall'inizio dei giochi, quindi abbiamo 10 giorni di tempo. Quindi tempi stringono. Allora, insomma, buon lavoro e buona fortuna. Settimana prossima ci aspettiamo un'udienza dove si può far chiarezza ancora una definitivamente. Volta spiegare, chiarire e sperare. Va bene. Ci risentiamo, allora ci aggiorniamo su questo, avvocato Brandstatter. Grazie, buon lavoro. E adesso invece ci trasferiamo a Cleveland, nell'Ohio, negli Stati Uniti, con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, appunto, degli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao a voi. Marco, intanto ce l'hai il giubbotto antiproiettile, perché ho letto che molti reporter di vari media americani stanno andando a Cleveland, sono andati con il giubbotto antiproiettile dopo le stragi che ci sono state, questa tensione anche negli Stati Uniti, no? Razziale e non solo. Mi devo accontentare, mi sembra, di un giubbottino molto più leggero, anche perché fa un caldo piuttosto forte, quindi è la speranza che magari... le cose vadano tranquillamente, giorni, prevalga il buon senso. Senti, esatto. Come sta andando questa apertura? C'è Trump, perché sembrava che non dovesse esserci il primo giorno della sua convention, invece leggevo che in attesa presenza. Invece, esatto, è attesa la sua presenza, non ha resistito al fascino della moglie Melania, che parlerà questa sera, diciamo i lavori veri e propri, insomma, la parte mediatica più intensa della prima giornata comincerà dopo le 7 di sera qua, quindi dopo l'una di notte italiana. Ecco, sarà lo stesso Trump, a quanto è emerso, che introdurrà così la moglie Melania, che è un po' la grande attrazione della prima serata, assieme, diciamo così, a una collezione di militari, di ufficiali delle forze armate, dei servizi segreti in pensione oppure promossi alla politica, e che dovrebbero così dare un'immagine di Trump come condottiero credibile del Pentagono, mentre appunto Melania dovrebbe così fingere l'immagine di un carattere, ecco, personale, credibile. Marco, perdonami se ti interrompo. Marco, scusami, sì. Siccome è arrivata adesso un'agenzia, sì. Si parla dell'italiano vittima a Nizza, la Farnesina. Il Ministero degli Esteri italiano informa che la polizia giudiziaria francese ha formalizzato l'avvenuto riconoscimento dell'italiano Mario Casati tra le vittime della strage di Nizza. Ecco, siccome si aspettava appunto notizie sugli italiani. Scusami Marco, e quindi dicevi, insomma, partito questo primo giorno, Melania ha fatto la sua figura, è un ex modella tra l'altro di 46 anni, la moglie di Trump, no? Quindi diciamo per la sua immagine sì, una certa importanza. Esatto, sicuramente esatto, la sua immagine, ecco, è forse la sua prima vera uscita pubblica, quindi anche per questo c'è attesa, sinora è rimasta piuttosto silenziosa, anzi del tutto silenziosa, quindi diciamo la così aspirante first lady, così la prima prova da aspirante first lady. Pronto? Scusami Marco, scusami, c'era stata un'interruzione dentro le cuffie. Quindi dicevi, la prima prova da First Lady, leggevo di recente che forse la scorsa settimana solo 3 punti distanziano Trump da Hillary, quindi sarà una bella lotta. Questo è il primo giorno di convention, avremo modo di capire come va quindi nei prossimi giorni. Grazie Marco D'Alsania. Sicuramente a voi, a presto. Ciao Marco, ci dobbiamo lasciare e ci riaggiorniamo brevemente alle 22.